Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Nuova puntata dedicata al mondo della scuola, oggi molto ricca di voci, oltre alla mia, Mirko Cavallino, oltre a Eddie Daici in regia, 5 ospiti che andremo man mano a conoscere. Parliamo oggi in particolare di attività di volontariato e di educazione tra pari, ma ne scopriremo di più nel dettaglio, salutando tutti i nostri ospiti che arrivano dall'Istituto Alberini di Treviso, poi ce n'è una che è legata, anche se in realtà fa il suo lavoro professionale nell'azienda ULS numero 9. Partiamo dal professor Nicola Rigon, docente di religione all'Istituto Alberini. Bentornato, perché sono passati 2 anni e mezzo circa. Sì, sono passati 2 anni e mezzo. Sono felice di questa opportunità che è stata data a me e al nostro istituto, e quindi colgo l'occasione per poter riprendere quel discorso interrotto che in realtà nella pratica ha avuto uno sviluppo ulteriore. Tu nella scuola hai un ruolo particolare, oltre a insegnare religione, che già di per sé basterebbe, però nello specifico di cui parliamo oggi, qual è il tuo ruolo? Ho una funzione che ha la specificità di organizzare e coordinare tutte le attività che hanno a che fare con il benessere, con lo strabene a scuola degli studenti e con la promozione della cittadinanza, nonché della responsabilità dentro e fuori la scuola. E sono cose che andremo a conoscere, come anche con la tua collega, anche lei docente di religione, Maria Grazia Granziol. Benvenuta intanto. Lei invece segue un altro aspetto, un altro lato di questa medaglia o di questo poliedro. Sì, seguo con il collega tutta quella parte dei ragazzi che si occupa di volontariato e cittadinanza attiva. Il nostro obiettivo è quello di far sì che i ragazzi, in maniera sensibile e gratuita, si guardino intorno e cerchino di prendersi cura di quello che c'è attorno a loro, per cui si impegnano in attività di volontariato nella scuola e all'esterno della scuola, e di sensibilizzare anche i compagni, anche i più piccoli, ad alcune cose che possono essere in quel momento urgenti o adeguate. Penso al discorso dell'energia, penso al discorso della lotta alla mafia, al tema dell'omofobia, di cui poi la nostra ragazza che è rappresentante vi parlerà più diffusamente. Allora, l'ha già anticipata, è seduta a fianco, è Brigitta Marin, frequenta la classe quinta C del percorso ristoratori, esatto. Giusto? Tu hai iniziato quando ad entrare in questo giro di attività? Ho iniziato 2 anni fa. Però veramente in maniera attiva quest'anno, essendo diventata la responsabile dei progetti di volontariato Pane e Tulipani, in particolare nel progetto Pane e Tulipani, che si occupa della raccolta di generi alimentari per enti come CAVE e Caritas. Ecco, già qualcosa hai detto, un cenno, poi nei dettagli entreremo dopo. Presentiamo anche un tuo compagno, anche se in un'altra sezione, quinta B, sempre del percorso ristoratori, Omar Pasquali, benvenuto. Tu invece segui quale percorso? Io seguo il percorso di educazione alla pari, sempre nella nostra scuola. Ho cominciato in questo percorso dal terzo anno, con il progetto Contro il Fumo, e poi dal quarto Contro l'AIDS. Insieme a tutti gli altri compagni. Naturalmente, insieme agli altri compagni. Esatto, e poi anche con te entreremo nello specifico. A fianco a te, ed è la quinta voce, sesta, perché oggi siamo davvero tanti, Francesca Allegri, che è del Servizio Educazione e Promozione alla Salute dell'azienda US 9 di Treviso, però legata a quest'ambito scolastico, giusto? Sì, in particolare sì, perché la mia attività prevalente si svolge proprio all'interno delle scuole o in collaborazione con le scuole, studiando insieme anche agli insegnanti delle strategie per migliorare il benessere dei ragazzi, per promuovere salute all'interno delle scuole. Quindi i progetti di peer education sono proprio uno degli strumenti di promozione della salute a scuola. La peer education in inglese è l'educazione tra pari, cioè tra i coetanei o giù di lì, insomma. Diamo i numeri, Nicola, nel senso buono del termine. Cerchiamo anche di capire la dimensione dell'istituto. Quanti sono i ragazzi nell'istituto e quanti poi sono più direttamente coinvolti in questo progetto? Gli studenti dell'istituto sono 1089, i ragazzi che via via negli anni si sono impegnati e si stanno impegnando in queste attività sono sempre un numero crescente. Noi siamo abituati a verificare la partecipazione, a verificare gli effetti e i risultati dell'impegno degli studenti e anno dopo anno l'incremento dei numeri ci attesta che quell'idea che sta alla base del coinvolgimento dei ragazzi, e cioè quella di sentirsi a scuola sempre più una comunità nella quale studenti ed adulti collaborano, cooperano e insieme agiscono per il bene di ciascuno e quindi poi di tutti, tutto questo ci viene a dire che siamo confortati rispetto al nostro agire e se i numeri dobbiamo darli, oggi i ragazzi che sono impegnati nella recente formazione rispetto alla peer education sono una cinquantina, abbiamo un numero abbastanza elevato, una trentina di studenti che sono impegnati invece nel volontariato. E questo significa poi che il loro agire ricade su un numero enorme di studenti che poi possono prendere l'occasione del coinvolgimento per attivarsi a loro volta. E questo non solo, come capiremo tra poco, all'interno dell'Istituto Alberini, ma anche allargandosi ad altre scuole. Facciamo la prima pausa, questo era solo un primo giro di infarinatura e detto all'Alberini è quanto mai appropriato. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. I passeri assiepati sugli alberi spogliati si fanno compagnia. Restano in disparte come foglie secche, pronti ad andare via. La primavera arriva come un acquerello, tinge casa mia. Voglia di giocare e di respirare gli attimi che vanno via. Ed io mi sento un po' a metà. Colorate per la festa in piazza mettono allegria. Il fuoco d'artificio scoppia all'improvviso, i bambini guardan su. Mio padre mi protegge, mi tiene stretto stretto, vorrei restare qui. Poi si va a dormire fino alla mattina, si sveglia la città. E un altro giorno arriva già. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Eccoci ancora insieme in questa puntata ricca di voci dal mondo della scuola con due studenti dell'Istituto Alberini, due docenti e un aiuto, una tecnica si può dire dell'ULS 9. Stiamo parlando di attività di formazione, di volontariato, di cittadinanza attiva, di educazione tra pari. Brigitta, che frequenta la quinta C, poco fa ci ha parlato appunto di alcune esperienze di volontariato. Hai citato pane e tulipani. Esatto. Il pane mi viene da pensare appunto che come istituto alberghiero magari lo fate di giorno in giorno, i tulipani invece cosa rappresentano? Beh, in verità pane e tulipani è un progetto che viene esteso a tutte le scuole della provincia, scusi, e comprende inoltre il progetto contro l'omofobia, il progetto Mi illumino di meno, che è atto al risparmio energetico, e il progetto Pane e Tulipani, come avevo già detto in precedenza, e il progetto di studio alla pari, dove i ragazzi della stessa età degli altri si impegnano ad aiutarci recuperando le materie nelle quali si hanno difficoltà. Si studia assieme. Esatto. Appunto. Professoressa Granziol, voleva aggiungere? No, volevo dire sul progetto Pane e Tulipani, è una collaborazione che viene fatta con un laboratorio che è provinciale di Treviso dei servizi per il volontariato, che coordina un po' tutte le scuole e ha proposto questa iniziativa alcuni anni fa ed è diventata un'iniziativa che è un po' uno zoccolo ormai nella scuola, nel senso che fa parte dell'esperienza di molte scuole di Treviso e della provincia, e si occupa appunto di sensibilizzare i ragazzi nella raccolta di generi alimentari oppure no, per delle associazioni piuttosto che per altri enti che loro scelgono e a cui destinano tutto il ricavato. Ecco, quindi è un'esperienza molto importante perché li sensibilizza tutto l'anno, tutto il corso dell'anno a questa attività. Ecco. Ecco, Brigitta, tutta la classe coinvolta, non solo la vostra? Esatto, tutte le classi dell'istituto sono, diciamo, invitate a partecipare a questo progetto. Noi ad esempio raccogliamo una piccola somma di denaro ogni mese e un incaricato fa la spesa e poi la porta in donazione al progetto. Quando qualche tempo fa, già l'anno scorso dicevi, ve l'hanno proposto come classe, io lo chiedo a te perché sei tu qui, quindi le tue reazioni, l'atteggiamento, l'idea, insomma, qual è stata, pensando magari che ti eri iscritta all'alberghiero per fare solo l'alberghiero, poi dentro ci hai trovato anche altre cose. Esatto, io sono stata molto contenta di essere potuta essere coinvolta, di partecipare a questo progetto, e anche in quel periodo la mia classe si è impegnata a fare una spesa ogni mese e a donarla, quindi mi sentivo veramente molto fiera di poter aiutare le persone meno fortunate. Passiamo a Omar, che invece segue un altro percorso, sempre con la sua classe quinta B. Voi in classe quanti siete, Omar? Siamo parecchi, saremo quasi una trentina in classe nostra. Bella corposa, siete sopravvissuti in 30 e fino in quinta, non è cosa da poco. Beh, siamo stati sì un po' di inserimenti e perdite lungo la strada. Ecco, nel tuo specifico invece la peer education, cioè l'educazione tra pari. L'educazione tra pari consiste nel informare, diciamo, degli studenti, nel caso del contro il fumo, di terza andiamo nelle prime, perché di solito quella è l'età, diciamo, dove si comincia a prendere in mano le prime sigarette, a fumare così, e nel caso invece dell'AIDS cominciamo dalle quarte e andiamo nelle terze a, diciamo, proporre questo progetto, a fargli cioè concretamente fate un po' voi gli insegnanti, no? Sì, è quello lo scopo principale, cioè sarebbe entrare nelle classi senza un adulto, senza la presenza di un adulto, e riuscire a far capire quali rischi vanno a correre i ragazzi senza, diciamo, appunto l'aiuto di un adulto, senza che praticamente ci sia la sua presenza, e che praticamente comporti una specie di imbarazzo nei ragazzi nell'affrontare i discorsi. Con il volgo Francesca Leghe, che in quanto operatrice dell'ULS 9 più direttamente interessata, ovviamente nei confronti dei più grandi c'è una prima formazione. Certamente. Chiaramente. Allora, sono ragazzi che, è preciso, non fanno parte di una classe o di un gruppo di classi, ma sono selezionati, per così dire, dalle stesse classi, quindi sono leader positivi all'interno della loro classe, che vengono in qualche modo messi in evidenza dai compagni, individuati, e poi anche volontariamente entrano a far parte di questo gruppo e ovviamente partecipano ha una formazione che è anche piuttosto corposa, perché riguarda le tecniche di comunicazione e di gestione dei gruppi, oltre che l'argomento specifico, quindi l'informazione, diciamo, anche scientifica sul tema. E, diciamo, il progetto originario, quindi il primo che è entrato all'Alberini e che ormai ha tradizione, è proprio lo Sfumiamo i dubbi, che è un progetto per la prevenzione del tabagismo. Più attuale che mai adesso, con il divieto di fumo a scuola, che è esteso anche agli spazi esterni, per cui c'è proprio necessità di un grosso lavoro di sensibilizzazione, di cambiamento culturale nei confronti dell'abitudine al fumo. Questi sono ragazzi appunto di terza che vengono preparati e che poi portano nelle classi prime degli interventi che non sono lezioni assolutamente, sono proprio attivazioni, stimoli alla discussione, al confronto tra pari sulla scelta del fumare e del non fumare, c'è una parte informativa ma non sempre viene messa al centro, più spesso si discute del tema della scelta, della pressione dei pari, della capacità decisionale, quindi insomma diciamo che lavora sulle cosiddette life skills, no? Competenze di cittadinanza, che sono proprio le competenze che i ragazzi devono acquisire per poter stare al mondo in maniera sana. Omar, andando in classe dai più piccoli, che atteggiamento hanno i più piccoli nei vostri confronti? Beh, all'inizio... Anche se magari un anno, due anni di differenza solo. Sì, anche se però sono pochi scuola anni, sono tantissimi. Il primo atteggiamento che hanno è di perdere tempo, cioè il primo pensiero che hanno è di perdere tempo, no? Dicono bene, entrano questi ragazzi, adesso è perfetto, si può fare quello che si vuole, gira. Il compito più difficile infatti è tenerli, diciamo, a bada, in ascolto. Questo però deve avvenire senza un, cioè non deve essere una specie di imposizione, esatto, più appunto deve essere una specie di coinvolgimento, ci deve essere, e niente, tirarli in ballo e riuscire a farli, diciamo, interessare è la cosa principale. Anche quello che preferisco io è riuscire a farli parlare, a interessare del discorso e confrontarsi, ma l'importante è seminare. Ultima pausa e poi raccontiamo ancora di queste esperienze di volontariato, cittadinanza attiva ed educazione tra pari. Dal mondo della scuola. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola, un mondo molto ricco di iniziative, di esperienze positive come quelle che stanno vivendo, ad esempio alcune classi, anzi diciamo tutto l'Istituto Alberini di Treviso. Qui abbiamo due rappresentanti, Brigitta e Omar, che ci stanno raccontando e condividendo le loro esperienze. Esperienze, Brigitta, che vanno al di là ovviamente dell'attività scolastica, dei laboratori, esatto, dello studiare, eccetera. Esatto, perché comunque noi sì, agiamo all'interno delle ore scolastiche per, diciamo, sensibilizzare le persone, ma poi al di fuori di queste ore ci troviamo e facciamo delle piccole riunioni dove emergono tantissime idee e possiamo confrontarci e progettare anche per i nuovi progetti che potranno emergere gli anni successivi. Ecco, tu sei in quinta, quindi fra, esatto, pochi mesi finirai esame e non farai più parte di questo progetto, ma già state lasciando degli eredi. Esatto, perché è molto importante che anche i nostri successori vengano a contatto con queste realtà e possano a loro volta proporle ad altri ragazzi. Ti chiedo se anche dopo, quando farai quello che farai dopo la fine di giugno, metà luglio, esatto, se magari resterai in contatto con, o pensi di restare in contatto con le realtà, i gruppi che hai incontrato. Assolutamente sì, lo farò senz'altro, perché è una tematica che davvero mi sta a cuore e lo farò sicuramente. Professoressa Granziol voleva chiosare. No, mi riferivo a quello che diceva adesso Brigitta. Effettivamente noi abbiamo ex studenti che hanno lavorato con noi negli anni scorsi, che vengono comunque e gestiscono alcune attività con noi, alcuni progetti che stiamo realizzando sono stati preparati da loro l'anno scorso e li vedono in divenire partecipando alla vita della scuola. Inoltre credo che è importante che loro stanno toccando con mano, che questo entusiasmo si trasmette, per cui il nostro desiderio tutti insieme è quello che diventi una sorta di condivisione comune delle esperienze che viene portata nella scuola ma anche nella vita personale, insomma. Anche perché sennò si rischia di non essere credibili, no, Francesca? Sì, a proposito di questo, mi viene da dire, mi viene da confermare che è un entusiasmo contagioso, ed è forse il valore principale di questo tipo di attività, perché la ricaduta sul contesto e quindi sugli altri studenti, ma anche su chi lavora all'interno della scuola, è il beneficio maggiore ed è quello che costruisce proprio una scuola che promuove salute, ecco, che fa salute. È chiaro che poi persone più sane, ragazzi più sani imparano meglio, stanno anche meglio insieme, diventano anche cittadini migliori evidentemente. Beh, in un corso dove poi si prepara da mangiare, ben venga ancora di più. Omar, citavi prima, dalla terza rivolti a quelli di prima e seconda, in quarta rivolti a quelli di terza, in quinta? E in quinta niente, è più un reclutamento, diciamo, cioè si vanno a pescare le nuove persone che vogliono aderire a questo progetto e andare loro nelle classi, e si partecipa ai corsi, diciamo, ai corsi per farli, per insegnarli e farli andare nelle classi, si partecipa, si mostra la propria, diciamo, per far capire la propria esperienza. E a volte anche si aiuta, si va di nuovo nelle classi per aiutarli, ma la cosa principale che si fa è lasciarli parlare, diciamo, le nuove persone. Ti è servita personalmente questa cosa? Cioè hai imparato, a parte le cose tecniche, non so, sul fumo, sull'AIDS, a parte i contenuti, ma anche nel modo di approcciarti e relazionarti? Beh, quello sì, decisamente, soprattutto sì, quando nelle classi, diciamo, una cosa che mi è molto piaciuta è stata innanzitutto purtroppo l'ignoranza, se si può dire, delle persone che non sanno i ragazzi a cosa vanno incontro facendo determinate cose, che le fanno appunto senza il pensiero, ma senza colpa, perché come se, cioè, non lo sanno praticamente. E una cosa che mi ha molto colpito è stato proprio l'interesse che trovano certe persone che appena si entra in una classe magari all'inizio si oppongono, come sono, se non hanno proprio assolutamente interesse per questa cosa, ma poi proprio diventano quasi quelli più attivi all'interno della classe a parlarne e a chiedere anche. Un'attività che avete fatto all'interno, quindi nel vostro istituto, ma vi è successo anche di andare in trasferta? Sì, diciamo in trasferta, perché oltre al nostro istituto c'è stato, diciamo, detto che in un'altra scuola, l'istituto Riccati e anche a Luzzati, che alla fine sono, diciamo, una seconda sede, non hanno avuto la possibilità di aderire a questo progetto i ragazzi, non c'è stato tempo, la scuola non ha dato, diciamo, l'adesione, la possibilità, sì. Ecco. E hanno chiesto a noi di andare a fare questi interventi all'interno dell'istituto, nelle classi, e la cosa che è stata più positiva è che questo fatto, diciamo, che ha colpito così tanto questi ragazzi che quest'anno si sono proprio, sotto richiesta di loro, l'istituto ha aderito al progetto e hanno avuto un sacco di persone, adesioni, di partecipanti. Bene, allora è bello, insomma, che le esperienze positive si allarghino, non solo le cose brutte, le notizie brutte. Nicola, ovviamente si continua, perché già ce ne avevate parlato a suo tempo, adesso mi pare che a distanza di tempo il progetto sia cresciuto. Io sono convinto non soltanto da solo, ma insieme ai colleghi che operano e ai ragazzi, alla dirigenza, che il clima della scuola in questi anni è decisamente mutato. La collaborazione, la cooperazione, la partecipazione dei ragazzi ha generato anche negli adulti la capacità di rendersi conto che una comunità è tale se ognuno assolve ai propri compiti, ma in particolare ognuno si prende carico delle sue piccole e grandi responsabilità. E devo dire che soprattutto dal punto di vista dello vivere a scuola qualcosa di nuovo si è affermato, e su questo io credo noi dobbiamo lavorare per il futuro. L'idea che la scuola possa essere una casa da abitare, laddove per molti studenti oggettivamente diventa il primo ambiente in cui essere ascoltati, essere riconosciuti, essere accettati, e nel quale anche riconoscersi, perché come si diceva anche che precedentemente, il donare, il dare, l'essere attivi, il promuovere azioni non soltanto fa bene agli altri, ma determina un accrescimento delle risorse personali e, posso dire, rende felici. Bene, con questa conclusione positiva noi auguriamo in bocca al lupo a Brigitta e Omar per quel che resta dell'anno scolastico, a voi e a tutta la vostra classe. Il grazie per il loro lavoro che continua ai professori Granziol e Rigon e a Francesca Allegri dell'Ulss 9. Grazie per essere stati con noi per questa bella condivisione, buon proseguimento. Grazie. Grazie a lei. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.